Eccoci qua dopo questa breve pausa musicale, ritorniamo in onda, sono le 19.37 minuti, quindi siamo entrate ufficialmente da quasi 40 minuti nella 19esima ora di questa maratona e ci accompagnano in questa giornata anche l'Assemblea delle Donne dei Castelli Romani, un collettivo che ormai insomma diciamo è storico, lo conosciamo bene, ci vengono a trovare spesso, sono donne veramente tanto attive nel territorio, ci racconteranno le ultime azioni di cui sono state protagoniste e che tra l'altro hanno avuto anche una chiusura positiva, quindi insomma un sacco di bei risultati, da un'occupazione simbolica all'ospedale di Marino fino alla riapertura del consultorio, un'indagine della pillola del giorno dopo, insomma sono attive un po' su tutti i fronti. Intanto noi le salutiamo, le ringraziamo per essere qui e ciao, ci volete un po' raccontare di voi, del collettivo? Beh, possiamo iniziare banalmente ricordando che noi facciamo un'indagine continua e quindi su questo è questo che ci tiene in qualche modo attive e vive, perché i territori comunque presentano talmente tante questioni su cui agire, su cui intervenire e su cui studiare, che non è possibile che le donne e le compagne non trovino attività da svolgere vicino casa, tra virgolette. E noi da tantissimi anni facciamo l'Assemblea delle Donne dei Consultori utilizzando il misconosciuto articolo 8 della legge regionale 15 del 78, quella legge che la Tarsia voleva abrogare, quella legge che non mi ricordo come si chiama il direttore, il dirigente Massimo della regione voleva abrogare, però noi siamo riuscite in qualche modo, non solo noi ovviamente, ma con tutte le donne che sono intervenute, si sono mobilitate nei momenti di pericolo di abrogazione appunto di questa norma che permette alle donne di organizzarsi all'interno dei consultori, quindi avere una rappresentanza tra virgolette istituzionale, chiamiamola così anche se è brutta la parola, ma comunque avere accesso quindi non solo ai consultori ma anche agli ospedali, ma anche alle informazioni delle varie ASL, e noi questa è una cosa appunto che abbiamo utilizzato come strumento, come grimaldello per poter avere informazioni, comprese le ultime iniziative che abbiamo fatto proprio a seguito di informazioni che abbiamo recuperato. Sì, in effetti una insomma, delle ultime iniziative che abbiamo fatto è stata proprio l'occupazione simbolica del terzo piano dell'ospedale di Marino, perché praticamente dal 2003 erano stati avviati dei lavori di questo reparto, appunto il terzo piano, ma insomma fino a poco fa ancora non era stato consegnato questo reparto, quindi era chiuso. Noi siamo andate lì simbolicamente, abbiamo voluto parlare con il responsabile dell'ospedale, il direttore dell'ospedale, il quale poi ci ha indirizzato verso il commissario straordinario Mucciaccio, che adesso non c'è più, per cercare di capire appunto come mai non era aperto questo piano. Visto che erano passati 10 anni, esatto, e sono veramente tanti, e quindi esatto, disagio per le donne che andavano lì a partorire. Perché immagino erano, fosse esatto, appoggiati al piano di sotto, quindi ha creato disagio. Questo ha fatto anche sì che diminuissero anche le nascite all'interno dell'ospedale di Marino, un po' quello, un po' anche il fatto che comunque il numero sia dei pediatri, quindi sia pediatria che ostetrice e ginecologia, c'erano pochi medici disponibili, quindi c'è stato insomma un rischio proprio di chiusura del reparto, e quindi siamo andate lì sabato, insomma siamo riusciti a parlare con il responsabile, con Di Paolo, che il direttore sanitario okay. E poi abbiamo avuto un successivo più in là incontro con Mucciaccio, che era appunto il commissario straordinario, il quale insomma ci aveva detto che non erano stati aperti fondamentalmente, non era stato aperto questo reparto perché ovviamente non erano stati finiti di pagare i lavori e si aspettavano, la classica cosa, aspettava la regione, lui ci aveva garantito che la regione avrebbe pagato. Poi è uscita fuori con altri articoli dicendo che entro fine gennaio avrebbero riaperto questo terzo piano, e effettivamente poi noi il 2 febbraio abbiamo fatto un'altra assemblea pubblica proprio all'interno dell'ospedale, proprio in questo terzo piano, in cui il direttore del presidio ospedaliero ci ha detto che era stato aperto. Abbiamo visitato questo terzo piano in cui c'è anche poi il parto in acqua, quindi c'è anche stanno finendo di allestirlo. Devono finire di consegnare il nido e ancora non abbiamo capito se è stato consegnato o no questa parte, diciamo. Però, insomma, però la cosa si è smossa. La cosa si è smossa, insomma, bisogna sempre tenerla sott'occhio. In realtà questa cosa è successa proprio a cavallo delle elezioni, quindi diciamo che va un po' tenuta sott'occhio. Perché poi quando c'era, cioè, con Bondi, la proposta era quella poi di chiudere il punto nascita di Marino. Però ancora adesso con, insomma, il cambiamento vedremo che cosa succederà, perché insomma i castelli, punti nascita, sono 4 ad oggi, e sono Velletri, Anzio, Genzano e Marino, e la proposta era quella proprio di chiudere sia Velletri che Marino. Poi una controproposta era lasciarne almeno 3, vedremo insomma che cosa accadrà, insomma, nei prossimi giorni. Noi siamo comunque presenti e vigili. Sì, fate benissimo, anche perché ci sono dei risultati, quindi insomma l'organizzazione delle donne funziona, come stiamo dicendo un po' da tutto il giorno. Così sembra, insomma, noi continuiamo. No, ma poi è stato interessante perché nel giro di 2 giorni abbiamo avuto due tra virgolette risultati positivi, nel senso, oltre all'apertura di questo terzo piano dell'ospedale di Marino, che sembrava appunto impossibile che potesse funzionare, poi noi l'abbiamo anche visitato, in effetti è funzionante, a parte la questione del nido, che non si è ancora definita, ma comunque ci hanno garantito che sarà una cosa breve, ma anche il consultorio che era stato chiuso per rottura del riscaldamento. Allora, se si rompe un riscaldamento si chiama un tecnico o una tecnica. E si aggiusta. E ovviamente questa cosa sembrava impossibile, quindi sia gli operatori che stavano dentro il consultorio, le operatrici erano disperate perché erano state trasferite a Ciampino, quindi noi siamo andati proprio davanti al consultorio mettendo i nostri striscioni, parlando con le donne che stavano lì aspettando perché avevano l'appuntamento. E per prendere un appuntamento ovviamente ci vogliono mesi, quindi dopo mesi non trovavano più il consultorio aperto e quindi c'era una grande arrabbiatura. Anche su questa cosa io non so se è il timore appunto dell'elezione oppure il timore che un po' ancora riusciamo a come si dice, esercitare sulle dirigenze locali, che ovviamente non vogliono che appaiano articoli sui giornali, che non vogliono che comunque vengano scritti manifesti in giro fin sotto la sede centrale della ASL. Noi mettiamo i manifesti regolarmente e quindi questa cosa e gli striscioni e comunque l'informazione è diffusa in merito a questo. E quindi stranamente sono riuscita a trovare qualcuno che aggiustasse il riscaldamento, e, cioè, questa stupidaggine tra virgolette comunque ha intanto da un lato fatto vedere qual è la vera intenzione, cioè quella di chiudere quei punti consultoriali che ovviamente non vengono reputati produttivi economicamente. E quindi invece per fortuna le utenti, le operatrici e comunque una mobilitazione ha comunque portato, stranamente, guardate un po', alla riapertura immediata di questo consultorio. E poi vabbè, siccome noi siamo in 4, credo che ci eravamo divisi gli interventi, io spero che le compagne riescano a mordere questo microfono. Stacco musicale. Sì. Ok. I've been watching you for so long. Eccoci qua, torniamo in diretta. Sono con noi, se vi siete messi all'ascolto in questo momento, le compagne dell'Assemblea delle Donne dei Castelli Romani. Abbiamo parlato di alcune iniziative che hanno messo in campo con molto successo in queste ultime settimane e adesso ci volevano parlare di questa indagine che stanno svolgendo sulla pillola del giorno dopo. Sì. Dunque, ritornando un po' a quella che era l'inchiesta che facemmo qualche anno fa sulla scia della campagna Obiettiamo gli obiettori, abbiamo ripreso un po' questa necessità di verificare presso gli ospedali della zona dei Castelli Romani e le guardie mediche come si comportano i medici quando le donne vanno a richiedere la pillola il giorno dopo. E fino ad oggi, insomma, quello che siamo riusciti a mettere insieme è stato, insomma, un risultato abbastanza sconfortante, nel senso che ancora insomma, c'è forte ostruzionismo, la pillola continuano a non volerla segnare, e si esercita l'obiezione di coscienza su un farmaco che è un contraccettivo d'emergenza, quindi non prevede, appunto, no, assolutamente no, esatto, quindi assolutamente fuori. E stiamo appunto cercando di rimettere insieme un po' tutti i dati circa le condizioni del nostro territorio e, come dicevamo, appunto non è assolutamente positivo quello che è uscito fuori, è un quadro assolutamente negativo. Esatto, in particolare siamo andate proprio, ci siamo prese il venerdì sera per andare a chiedere la pillola del giorno dopo, appunto il giorno, insomma, in cui non c'è né il medico di famiglia né consultorio aperto, quindi insomma è partita una chiamata alla guardia medica che inizialmente ci ha indirizzato verso l'ospedale. Abbiamo capito, insomma, che nel pronto soccorso ovviamente sei un codice bianco, quindi devi pagare 25 euro per la prescrizione solo per la prescrizione della pillola del giorno dopo, perché comunque tu stai lì, sei in ospedale, sei in pronto soccorso e sei un codice bianco. E fatto questo passaggio, insomma, poi siamo andate proprio Alessia, siamo andate proprio alla guardia medica, perlomeno siamo andate a Marino, guardia medica di Marino, che è presso i locali del consultorio, sera, tra l'altro, quindi presso i locali del consultorio. Succede che la guardia medica immediatamente ci dice assolutamente no, noi qui non la segniamo. Ovviamente noi, con la lucidità di chi non ha necessità in quel momento di un farmaco d'emergenza, certo, siamo pure un po' attempate, quindi non è che ci abbia messo il timore, abbiamo insistito e cercato di capire quali erano le motivazioni che spinge un medico. Tra l'altro poi abbiamo capito anche che il medico era un ginecologo, cioè lui nella vita fa il ginecologo, e questo medico assolutamente non era intenzionato a segnarci il farmaco. E quali sono state le motivazioni che ha addotto? Lui inizialmente ha detto immediatamente: io non sono obiettore di coscienza, ci mancherebbe, io però non sono obiettore di coscienza, però esatto, sai, il farmaco, però io non la conosco, il farmaco potrebbe far male. Perché noi gli abbiamo detto: beh, perché il Norlevo è famoso per le migliaia di morti in Italia, tante donne sono morte in Italia con questo farmaco, veramente un farmaco deleterio. Puntava sugli effetti collaterali, no? Quindi la paura dell'effetto collaterale, degli effetti collaterali, essendo un coagulante, però insomma, no, tanti altri medicinali vengono, esatto, prescritti senza tutti questi problemi. Al che noi giustamente gli abbiamo detto: questo allora ce lo deve mettere per iscritto, lei ci deve mettere per iscritto che non ci vuole segnare la pillola il giorno dopo. Al che lui tira fuori il magico foglietto, un prestampato, no, specifico per la pillola del giorno dopo, una liberatoria sulle responsabilità, ovvero io come medico mi tolgo tutte le responsabilità nel caso in cui tu dovessi vomitare, girare la testa, avere febbre, questi sono i sintomi del Norlevo. E sostanzialmente ci ha fatto firmare questo foglietto autoprodotto, nel senso che gli abbiamo chiesto da dove provenisse, se era il ministero che aveva avuto la splendida idea di tutelare i propri adepti per circa questo farmaco. E no, assolutamente no, lui ci ha risposto che non stanno lì a fare i burocrati, che quello è una specifica per la pillola del giorno dopo e che è assolutamente di iniziativa propria. Questo medico è un ginecologo. Questo è un ginecologo. Senti, e quanti presidi medici e ospedalieri siete riusciti a raggiungere con la vostra indagine? È ancora in corso, è penso, ancora in, no? Corso per ora due, quindi siamo andati all'ospedale, come diceva la compagna, c'è stata difficoltà soprattutto laddove andava pagato un ticket di 25 euro. Di 25 euro, insomma, euro. Quindi abbastanza fastidioso. Insomma, immaginare che una giovanissima debba già accedere alla ricetta, poi si deve comprare il farmaco, i 25 euro diventano insomma una trafila, senza parlare poi chiaramente delle, delle esposizioni che tu hai quando ti mandano da una parte, esatto, all'altra, poi la cosa ti giudicano, esatto, il giudizio è la cosa, cioè, era veramente che a me ha lasciato veramente senza parole, cioè, proprio perché insomma nella guardia medica qua, a fianco a questa persona che insomma ci ha prescritto alla fine la pillola del giorno dopo, c'era un altro medico il quale ovviamente era contrario e ci diceva: io non me l'avrei assolutamente mai prescritta. E non solo, dopo che ce l'hanno prescritta ci ha detto: mi raccomando, non lo dite a nessuno che ve l'abbiamo prescritta e non tornate più. Incredibile. Noi veramente, cioè, senza libide, senza parole, abbiamo detto: ma lei, sì, insomma sta facendo un servizio pubblico, ma che dice? No, no, insisteva su questa cosa, sì, non tornate a elemosinare la pillola del giorno dopo, dovevate come voi, ho visto. Sperate come voi, dovete pensarci prima, quindi, qui vengono ancora con i pantaloni abbassati, eccetera, eccetera, eccetera. Wow. Questi sono i medici della guardia medica di Marino. Invece sappiamo che all'estero non è così. Abbiamo fatto un po' un approfondimento, no, su questa cosa, per vedere un po' quello che girava intorno anche dal punto di vista scientifico. E la situazione è questa, è comunque abbastanza differente da ciò che si svolge in Italia, no? Per cui, per esempio, parlando di situazioni che stanno molto più avanti, per dire in Francia la pillola del giorno dopo viene data dal 1999 e naturalmente viene data in farmacia tranquillamente e anche con un prezzo abbastanza basso, perché in Francia la pillola del giorno dopo costa 10 euro. La situazione non è tanto differente rispetto a altre parti tipo Olanda, Germania, Danimarca, Finlandia, in Grecia e addirittura in Algeria. Stessa situazione anche negli Stati Uniti, dove la pillola del giorno dopo viene data anche nelle scuole, questo anche in Francia o anche in Germania viene data dalle scuole e viene data anche estesa anche a minorenni, quindi c'è questa diffusione. Approfondendo poi ulteriormente, siamo andati un po' facendo un'indagine riferendoci un po' all'OMS, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si vede che c'è proprio una discrepanza tra ciò che l'OMS dice e quello che invece viene fatto qui e soprattutto a detta di questo comitato di bioetica di medici, che naturalmente sviliscono tutto ciò che è anche di letteratura scientifica. Per cui ci sono, ecco, sarebbe studi... interessante capire, sì, che cosa dice l'OMS in maniera che questo può essere pure uno strumento, no, sì, per... L'OMS dice che questo farmaco è un farmaco che viene usato soprattutto per la contraccezione e quindi di emergenza naturalmente, e quindi è similare a altre forme, quindi alla pillola, allo IUD e altre, e quindi che poi sostanzialmente non dà degli effetti così macroscopici e collaterali, anzi è un farmaco che difficilmente è allergizzante, è allergizzante, quindi che può essere naturalmente prescritto e soprattutto anche diciamo piano piano eliminato, e questa cosa qua è importante. Per cui ci sono proprio degli studi su proprio il principio attivo di questo farmaco, che è il levonorgestrel, questo principio attivo che viene usato anche in altri farmaci, e sono stati fatti degli studi dove esiste questo principio attivo, è stato visto che proprio non ci sono grossi problemi, non dà nessun effetto collaterale, no, come diceva la compagna, non ha assolutamente prodotto morti. Quindi lì il discorso rimane comunque il problema che effettivamente è un farmaco dove non è poco pubblicizzato, e questo non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo e anche in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, è un farmaco che viene, diciamo, sottostimato probabilmente perché viene usato poco, quindi c'è un discorso di intrecci anche delle case farmaceutiche sicuramente, quindi viene usato poco e che effettivamente potrebbe dare. L'OMS consiglia caldamente di usare questo farmaco e che venga conosciuto. Quindi chiaramente tutte queste cose vanno ulteriormente approfondite, vedere, perché poi l'OMS e anche questo comitato di bioetica dei medici sono andati in conflitto, tra l'altro sono dati anche della posologia e nella prescrizione del foglio, sono state fatte delle pressioni inizialmente, c'è stato proprio queste pressioni fatte per addirittura cambiare la prescrizione, quindi la posologia proprio di questo farmaco, per dire che questo aveva degli effetti collaterali e quindi che poteva essere anche abortivo, ciò che assolutamente non è vero, e quindi anche l'OMS è riintervenuta e dal 2005 è stato cambiato un'altra volta il foglietto del farmaco. Quindi questo ritorna a bomba no, la situazione italiana e diciamo di un paese essenzialmente cattolico esatto. Quindi chiaro che noi scontiamo la presenza del Vaticano qua oltre a tutte le altre cose, a comprarla in farmacia direttamente senza riuscire ad arrivare, insomma, non aver bisogno della prescrizione medica come viene fatto negli altri paesi europei. Infatti questo diciamo che ci sono associazioni alto, che più o meno hanno lavorato, l'associazione di Luca Coscioni, che stanno lavorando molto su questa cosa rispetto a come anche la donna si deve difendere in casi come questi, se tante volte soprattutto vanno e non te la danno, te la prescrivono, e quindi fare delle, ma al di là del discorso di denuncia che a noi poi interessa fino a un certo punto, è quanto donne e attraverso proprio i consultori, perché venga fatta una formazione, sì. Ma infatti noi sempre questa cosa l'abbiamo sempre ribadita, assolutamente è legittimo, il medico qualunque esso sia non può applicare l'obiezione di coscienza sul farmaco sul contraccettivo d'emergenza, assolutamente non è legittimo, non lo può fare, quindi noi diciamo sempre, consigliamo alle donne di farsi mettere per iscritto. È chiaro che poi in un momento in cui sei lì è necessità reale, stai nella totale confusione, c'è il medico che ti pressa, che ti giudica, ti fa il processo popolare eccetera. Il problema, la questione è che l'unico modo che noi abbiamo in qualche modo per contrastare questo andamento, questa modalità che ormai è talmente diffusa, c'è un'ignoranza, c'è confusione fra la pillola il giorno dopo, l'RU ed è abortiva, non è abortiva, non sono obiettivo di coscienza, però l'unica diciamo modalità che noi possiamo utilizzare, applicare, è quella di farsi mettere per iscritto. Allora tu mi metti per iscritto il motivo per cui tu non vuoi prescrivere il farmaco, già quello produce un risultato, nel senso che a quel punto il medico o ti tira fuori il magico foglietto prestampato e ti dice vabbè, ti firmo firmami la liberatoria, ti do comunque ti prescrivo il farmaco. In qualche modo tu rispondi in maniera efficace all'obiezione del medico. Il medico non si può permettere di non prescrivere un farmaco che non è abortivo, è un anticoncezionale, quindi non si applica obiezione di coscienza. Comunque credo che si sia capito anche i nostri prossimi passi di intervento nel territorio, nel senso che noi chiederemo ovviamente l'abolizione di questa liberatoria o comunque di capire da dove esce fuori che un medico ti porti davanti, ti presenti questo pezzo di carta. Primo. Secondo, chiedere quindi alla dirigenza, quindi ai dirigenti, ai superiori, tra virgolette, di questi medici, se questa cosa è legittima o no. Noi crediamo di no, e quindi aprire anche una piccola campagna contro questa questione. E anche perché poi le pillole sono due, c'è la pillola il giorno dopo e c'è la pillola dei 5 giorni, la L1, che in questo caso ed è ancora più costosa, e quindi è chiaro che questa cosa comporterebbe nelle donne che chiedono un contraccettivo d'emergenza, prima una confusione che va in ogni caso coperta con un'informazione invece molto chiara da parte della ASL stessa, nel senso che non è che possiamo essere noi a scrivere, stampare, attacchinare e informare, deve essere la ASL stessa che deve produrre un manifesto ufficiale in cui prima dice che questa liberatoria è un atto come si dice, non legittimo e non ufficiale, ok? E poi soprattutto deve fare informazione in merito alla contraccezione d'emergenza, visto che sull'RU 486 nella nostra zona c'è soltanto l'ospedale di Anzio Nettuno, dove c'è il medico buonanima, non che sia morto, ma semplicemente perché è disposto a comunque dare e quindi seguire le donne che chiedono, perché ovviamente è una scelta, libera scelta della donna, di poter fare l'aborto in maniera chimica, quindi con un farmaco che si prende, però tu poi devi stare, secondo loro, 3 giorni in ospedale, ma tu puoi firmare e andartene via, ma questo richiede ovviamente un ginecologo, comunque un dirigente medico che si assuma l'onere nel proprio ospedale di prendere una stanza da offrire, quindi mettere a disposizione della donna che chiede di poter accedere all'RU 486. Dopodiché è sempre una questione di forza, nel senso che se tu riesci ad imporla questa cosa, il medico non si può rifiutare di fare questo, offrire questo servizio sanitario. E quindi anche questo però è purtroppo una cosa che ci troviamo noi sulle spalle, perché siamo noi che dobbiamo premere per nei vari luoghi dove si decidono come fare le cose e come si mettono in pratica per poterlo ovviamente avere. Ma sicuramente faremo anche su questa strada della liberatoria, sicuramente faremo a questo punto anche una denuncia, perché crediamo che sia un abuso assoluto, avendo il pezzo di carta in mano possiamo ovviamente, se non altro, questa cosa ti permette di uscire sui giornali, tra virgolette, che ormai è l'unico modo per far vedere che esisti e che fai qualcosa. Sennò vabbè, oggi è l'8 marzo, tutti parlano dell'8 marzo, ma domani è il 9 e probabilmente già si sono scordati che... Okay. E salutiamo e ringraziamo le bravissime compagne che hanno fatto questa 24 ore di fatica e poi veramente brave. Devo dire che vi ho ascoltate veramente con entusiasmo, grazie, veramente grazie per tutto quello che fate. Comunque l'informazione è importante. Avete un blog, una mail? No, abbiamo una squallida pagina Facebook. No! Vabbè, dai. No, possiamo dire vabbè, datela, che facciamo le riunioni il lunedì. Allora, alle ore 19, ecco. Un lunedì la facciamo presso il centro sociale IPO di Marino e un lunedì successivo lo facciamo presso la sede dell'arcobaleno rotante, è un po' faticoso da dire ma è così, che si trova a Piazza Manin, sempre a Marino, vicino al centro sociale IPO, per cui forse dovremmo diffondere di più questa informazione, ma chi sente la radio e magari carta e penna e poi... Sì. Però dai, comunque avete questa pagina, no, dai, Facebook, assemblea delle donne dei assemblea delle donne dei castelli romani. Assemblea delle donne. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere state qui. Grazie, comunque tanto ci riaggiorniamo per qualsiasi cosa, anche perché vedo combattive nei prossimi martedì. Saprete tutti i prossimi appuntamenti e l'epilogo. Ci aggiorniamo. Grazie, ciao. Un bacio a tutte. Ciao.